Naturalmente va aggiunto, proprio per evitare equivoci, che il nous poieticos non è un livello che prescinde anche dai dati sensoriali, tutt'altro, semplicemente che li sa ordinare a un livello più alto. Quindi è come uno scacchista molto bravo che non ha bisogno di guardare la scacchiera 2 ore prima di fare una mossa, appena la vede ha la configurazione. Ma non è che lo scacchista più bravo non vede gli scacchi, li vede anche lui, solamente che in un colpo solo vede la configurazione, perché ha una visione più ampia che gli consente già di raggruppare i dati. Ecco. Quindi nous poieticos, che poi è il pensiero che diventa anche intuizione, che si incarna nell'intuizione e che poi si sposa con l'apertura del cuore, secondo la bella visione della Margherita Porete, lo specchio delle anime semplici, i due occhi dell'anima, intelletto e cuore, quando intelletto si intende appunto il nous poieticos, perché questo viene dal lavoro che aveva fatto Filone Alessandrino, quando collegò il logos al nous poieticos di Aristotele, e quello lo spirito, insomma, quando disse lo spirito è il nous poieticos di Aristotele. Questo perché, quindi, oggi potremmo dire che la spiritualità è la generazione di un campo di coerenza in cui tutti i livelli sono saturati. Quindi non è spirituale l'uomo che vive nell'astrazione e basta, e non è spirituale l'uomo che vive nella concretezza. L'uomo spirituale è colui che vive i diversi livelli in contemporanea o comunque in continuo movimento, e per cui ogni cosa rimanda un'altra e tutte rimandano a livelli sempre più alti fino a che rimanda ciò che è essenziale, 2 cose, il bene e la giustizia, e poi facciamo una sola cosa, il bene, perché il bene e la giustizia vuol dire il bene per tutti, semplicemente questo, il mio bene è anche il bene tuo, quando è vero bene, e quindi il bene e la giustizia alla fine è, e infatti Aristotele parla proprio, Platone parlano proprio di livelli sempre più profondi di comprensione del bene, finché comprendiamo il bene in sé, che per una persona che vive a livello di nous pateticos è incomprensibile questa cosa, perché dice bene non significa il bene in sé, non significa nulla, perché io ho bisogno di mangiare, il bambino ha bisogno di questo, ma questo il bene in sé lo comprende. Non è che semplicemente non si limita a quello, lo inquadra in una visione più ampia in cui oltre al bene singolo c'è la giustizia, cioè l'equilibrio, l'equanimità, cioè l'insieme di tutte le qualità dell'essere, perché bene e giustizia, cioè il divino secondo Platone, sono l'insieme delle qualità dell'essere, quindi fa parte dell'attenzione alla concretezza. Guarda caso, nelle indicazioni di qualità, secondo la relazione d'aiuto, secondo Kharkov c'è la concretezza. Ma guarda caso, perché se no, ecco, ma ogni volta le puoi spostare come ti pare, perché voglio dire, ci devono essere tutte. Nel nostro linguaggio occidentale abbiamo una difficoltà infinita a non continuare a separare, non ce la facciamo. Va bene, operiamo le distinzioni, alleniamoci le distinzioni, ma sappiamo che poi ogni distinzione va superata in una sintesi. Se no non arriviamo al nocciolo, non c'è libertà senza giustizia, non c'è giustizia senza libertà, non c'è astrazione senza concretezza, l'astrazione senza concretezza è follia, la concretezza senza astrazione è stupidità, cioè, capisci? Quindi tutte queste cose, il nostro modo di pensare, che sappiamo individuare le cose ma non integrarle, questo è il passaggio che come cultura dobbiamo fare. Come anche dice Del Giudice, è importantissimo che abbiamo sviluppato un periodo riduzionista per individuare gli oggetti, ma quello che ci manca adesso è il collante che li tiene insieme,